La Serra Spiga Production in collaborazione con la Casa Circondariale di Cosenza, la Terza T di Paola e Chiude Ficenti Catena Mazda e a Papa Sappina Ferrari presentano la classe, lo charme, lo stile di due cosentini doc, Giovanni Du Crucifisso e Nicola da Riforma. Giovanni e Nicola, dopo la loro prima rapina andata bene, ricevono in regalo dal famigerato Ginuzzo di Santa Fe una croce a omaggio. Nico, è mamma di casino per di mano. E allora un attimo che faccio una cuccia di ferrochina. Io la miseria di ferrochina non la fa nei 60 anni, e mamma di calla su per trovarmi tutto. Oh, ma pure una storia di fumo. E certo, che ti pensi, che Ginuzzo è un cretino? No, ma non me ne parla, tutte le volte che Ginuzzo l'ha numerato, o pigliamo botte, o finisciamo in galera, io non lo so. Non ti preoccupare, Nico, Ginuzzo vuol di fiducia. Giovanni e Nicola, appena saliti, vengono colpiti dallo sfarzo della nave. Giovanni, era mi sa che l'osso, manco bello scone ci viene a ragione. Ma visto pure quando sticcio. Ma forse su troppo da classe per una femmina. No, attacca bottone con una frase qualsiasi. Babbo, c'è proprio. Scusa mamma, mademoiselle, vi trovassi una poca degnogna? Ma come si permette lei? Si allontani che anche puzza. Oh, ecco, ma chi ti credi che la tenessi solamente tu, come? Sicurezza, quel signore mi dà fastidio. Oh, ma che cazzo? Nico, ma che cazzo? Nico, si sembra solo. La prossima volta ne facciamo una croce rossa invece della croce. Giovanni e Nicola tornano settimana prossima, posti di blocco permettendo. Potete trovare il DVD di Giovanni e Nicola nelle edicole di Pedibigliano, 30 e a Rieto Carcere.